su CRM Happy Radio. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were as we are. I think of her now and then. I still hear the songs. Remind me of a friend. Don't you worry, child, non preoccupatevi ragazzi, ci siamo anche questa mattina. Buongiorno a tutti voi dalla voce di Mary Catalano, siete all'interno di Deja Vu, questo è CRM Happy Radio, naturalmente insieme a voi, la voce mia che vi accompagnerà fino a mezzogiorno, a meno che non vi stufate e cambiate canale, spero proprio di no, anzi vorrei proprio che faceste in modo che io sentissi la vostra presenza tramite gli sms, il 335-56-37-251 è il numero per gli sms, lo sapete. Per chi non lo sapesse, l'abbiamo appena ripetuto. E poi non dimenticate i mille modi che avete per mettervi in contatto con noi, subito il www.crmpiradio.it, il nostro sito dove ci seguite in streaming, dove fate se volete anche la vostra segnalazione musicale, e poi scriveteci su Facebook, ok? Vi aspetto numerosi anche quest'oggi, fino a mezzogiorno tanta buona musica, qualche novità, curiosità presa da internet. Sapete benissimo, se seguite questo appuntamento insieme a me, che noi di cose serie non parliamo, nel senso che già c'è tanta informazione negativa in giro per la televisione, per le radio, eccetera eccetera, l'informazione che comunque anche CRM stessa dà negli spazi appositi, insomma si parla spesso di cose negative. All'interno di questo appuntamento prevale la musica, come sapete, e poi qualche stupidaggine la diciamo anche, perché no, così giusto per curiosare tra le cose strane e particolari che ci sono, qualche pettegolezza, insomma. insomma, cose del genere, lo sapete già. E se non lo sapete, potete dare un'orecchiata, stare con me e rendervi conto da soli. E poi c'è la musica a fare da contorno, da colonna sonora alle vostre ore, ok? When I look you in the light, something deep inside me dies, 'cause I know you won't get better, better, better. You'd rather be right than below. The only thing I've understood, nothing's ever good enough. I stumble through words as they leave me, tremble at the sight of your majesty, and I cut myself just to get them out. This time I'll be different, I promise you. This time I'll be special, you know I will. My hair, then if you're not here, I fight myself. You're supposed to make this better, better, better. No self-control and no reason why. And if I don't change, then we both die. This is it for you and I. Blisters at the end of my fingertips. Praying to a God I don't think exists. Robbie Williams con Difference, il nuovo singolo per lui. Ancora buongiorno, ancora bentrovati. Siete su CRM Piredi all'interno di Deja Vu, l'appuntamento del martedì e del giovedì insieme a Mary Catalano con voi. Dovunque, dovunque voi siate, veramente dovunque ci potete ascoltare, ci potete sentire, ci potete anche messaggiare, ci potete contattare. Questa è una cosa veramente meravigliosa. Com'è meravigliosa la musica che continua questo CRM con la nuova di Gianna Nannini, La fine del mondo. Ancora bentrovati, qualsiasi cosa stiate facendo, buon ascolto. Non è stato facile dirti sempre sì e giocare nella nebbia a perderti. Voglio il paradiso e tu non sai cos'è. Immagina la fine del mondo sei già tu. Sei già tu. E non è stato semplice vivere per te e asciugarmi gli occhi alle tue lacrime. Tutto è già deciso, nessuno sa perché. Immagina la fine del mondo, sei tu. Fine di un giorno che non finisce mai, e abbassa quel sorriso, amore, dimmi, non ti lascio più, se tu sei il mio angelo. Fine del mondo sei già tu, sei già tu. Cerco il tuo pianeta tra le stelle mentre cade giù. Alla fine del mondo e manchi. Gianna Nannini avrà sicuramente pensato al 21 di dicembre, scrivendo il nuovo titolo a questa nuova canzone bellissima che è La fine del mondo. È uscito il 7 dicembre scorso, appunto, La fine del mondo, questo nuovo singolo di Gianna Nannini che anticipa l'album che si chiama Inno, in uscita il 15 gennaio per Sony Music. Il brano è il primo dei 12 inediti che compongono il nuovo album, tutti prodotti dalla stessa Gianna Nannini con Will Malone, che ha magistralmente arrangiato intorno alla voce di Gianna Nannini gli archi registrati ad Abbey Road a Londra. Per la cantatrice rock italiana più apprezzata all'estero, La fine del mondo rappresenta una nuova capacità di scrivere testi indimenticabili come un diario intimo e commovente. Lei dice: cerco il tuo pianeta tra le stelle mentre cade giù, la fine del mondo sei già tu. Bellissime queste parole, un testo scritto proprio da Gianna Nannini che arriva avvolgente come un'onda, e il brano propone una struttura melodica semplice, anche se l'arrangiamento con forte ispirazione anglosassone tra Beatles, Motu ed Elo non lo è affatto. È un orizzonte musicale che sembra tendere all'infinito. Insomma, bellissimo il singolo, che sarà accompagnato dal relativo videoclip, naturalmente di stampo molto cinematografico, incentrato sulla storia di una coppia dal momento in cui i due protagonisti si incontrano, praticamente scambiandosi il primo sguardo, fino a quando entrambi avranno il coraggio di dirsi per la prima volta le fatidiche parole ti amo. Per chi non se ne fosse accorto, Gianna Nannini è tornata alla grande dunque con questo album e con questo singolo soprattutto, che anticipa appunto l'uscita di questo lavoro che, come dicevamo prima, uscirà il 15 di gennaio per Sony Music. Un'altra ennesima canzone per tutti gli innamorati, insomma, da dedicare al vostro amoroso o alla vostra amorosa. Invece di tutt'altro parla Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti in questo singolo che ultimamente siamo abituati a sentire, il nuovo singolo per lui che si chiama Tensione Evolutiva, sempre all'interno di Deja Vu qui su CRM Happy Radio insieme a Mary Catalano. Buon ascolto. Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

freedom, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. And let me guide you to the purple rain. Per la serie L'Intramontabile, un grande successo di Prince, Purple Rain, qui a CRM Piredi all'interno di Deja Vu. Ancora buongiorno, bentrovati, siete insieme a America Talano con voi anche su internet al www.crmpiredi.it, il nostro sito dove ci seguite in streaming, dove fate le vostre segnalazioni musicali se volete. Perfetto, e parliamo di una cosa che è accaduta ieri a Palermo. Avevano messo in piedi un'organizzazione con base operativa proprio a Palermo, ma con ramificazioni internazionali, per carpire sul web migliaia di codici di carte di credito di utenti ignari. Le vittime della truffa sono residenti principalmente negli Stati Uniti d'America, in Brasile, in Giappone e nei principali stati europei. I loro dati venivano praticamente utilizzati per l'acquisto online a prezzi ridotti di biglietti ferroviari, aerei e marittimi e altri servizi vari. I codici venivano intercettati con le tecniche del pushing e dello sniffing, insomma, fate un po' voi. Le Fiamme Gialle hanno eseguito nell'ambito dell'operazione Easy Travel 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 ai domiciliari. I provvedimenti restrittivi hanno colpito i vertici dell'organizzazione. Si tratta di soggetti rumeni, africani, asiatici, oltre a un palermitano. Pensate un po', danneggiate per oltre 10 milioni di euro numerose compagnie di navigazione e di trasporto aereo ferroviario, oltre ad aziende fornitrici di servizi pubblici e di commercio via internet. Su internet internet veramente si fa di tutto. Ci sono gli hackers, ci sono i truffatori, quindi state con gli occhi ben aperti e state attenti a dove andate a finire nei vari siti che visitate, ok? Intanto andiamo a sentire la prossima canzone, un'altra segnalazione al 335-56-37-251. Arriva Pink, attualissima, la sua nuova canzone che già da qualche settimana sentiamo. Try. Ever wonder about what he's doing? How it all turned to lies? Sometimes I think that it's better to never ask why. Su CRM Happy Radio. Io non ho voglia più di fare più.

Negli anni 80 i Cameo andavano molto di moda e World Up, il singolo che abbiamo appena ascoltato, era molto molto di moda, era molto ascoltato, e tutto sommato, nonostante gli anni, che sono molti, che sono passati, piace sempre questo singolo. Ma torniamo alla musica nuova, quella degli Offspring, un po' di rock, di puro rock, di sano rock con gli Offspring, The Future Is Now. Gennaio.

Déjà Vu su CRM Happy Radio. Stop the Rain, James Morrison, questo CRM Radio, sempre Déjà Vu, sempre Mary Catalano con voi fino a mezzogiorno, anche per questo giovedì del 13 di dicembre, l'ultimo giorno della settimana, l'ultimo appuntamento della settimana per quanto mi riguarda. E arriva il Natale, si sa, pensiamo tutti a cosa potremmo portare in tavola, quante cose potremmo mangiare, a come potremmo deliziare il nostro palato. L'arrivo delle feste significa inevitabilmente l'arrivo di pranzi e cene con parenti e amici, ma perché rimpinzarsi di calorie in eccesso? Perché, dico io, possiamo limitarci anche a Natale, non è che per forza dobbiamo ingozzarci. Perché scervellarci per mettere a punto menù stravaganti e costosi? Un menù di Natale sostenibile per gli animali e l'ambiente, ma anche a tutto vantaggio della nostra salute, è proposto dalla LAV, pensate, in collaborazione con lo chef Simone Salvini. Basta consultare il sito www.cambiamenu.it e trovate tutto quello che si vuole. L'avocado con il suo pesto, spaghettoni a ragù di seitan, e poi frittelle di ceci con mele speziate, confetture di patate americane, insomma tante cose buone e comunque saltari. Un invito particolare, pensare ai nostri pranzi, alle nostre cene in modo responsabile anche durante le festività natalizie. Questa è una cosa interessante, appunto organizzata dalla LAV, e si può fare benissimo un pranzo senza lasciarci condizionare da quegli eccessi culinari a base di carne e pesce tipici di questo periodo, una scelta a tutto beneficio della salute del pianeta, naturalmente pianeta nostra e degli animali che avremmo contribuito a non uccidere, naturalmente, per riempire le nostre tavole di roba in eccesso. Ogni anno, infatti, secondo un'elaborazione dei dati Istat effettuata dall'associazione nei piatti degli italiani, finiscono milioni di agnelli e capretti, sono davvero tantissimi, e magari invece cercando di cambiare menù si può evitare tutto questo. Questo è solo un piccolo accenno, e una piccola fetta di tutto quello che insomma va poi perso in questo periodo natalizio, stiamo parlando proprio di una piccola parte. Secondo l'Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacultura, invece, nel 2011 in Italia sono state consumate 1.197.000 tonnellate di pesce, tanto anche in questo caso. Dati che non lasciano dubbi sull'alta probabilità che hanno i consumatori di portare in tavola, pensando appunto a seguire questa tradizione nazionale e appunto riempire le tavole. Cerchiamo di riempirle, sì, però con cose sane, con cose anche diverse, cambiare menù, cambiare ogni tanto fa bene, ci può anche piacere e ci può anche far scoprire gusti diversi e nuovi. Intanto arriva Tiziano Ferro che ha un segreto, vediamo un po' cos'è. Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro, e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice, e adesso, adesso, adesso te lo dimostrerò. Questo sono io, solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente ma non sono com'ero. E quella voglia di dirti ridendo, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro, e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice, e adesso, adesso, adesso te lo dimostrerò. Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell'amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo, con

Mancano circa 20 minuti a mezzogiorno e quindi al termine dell'appuntamento insieme a me, che è sempre Deja Vu su CRM Happy Radio. Poi ci sarà l'appuntamento invece con Filippo Glorioso, come succede sempre ogni giovedì a partire da mezzogiorno in poi, appunto con carta e penna. Nel frattempo aspettiamo sempre, per quanto riguarda la musica, il Festival di Sanremo, che ogni anno arriva puntuale. Anche quest'anno un sacco di voci che riguardano il Festival di Sanremo, un sacco di notizie: chi ci sarà, chi non ci sarà, cosa succederà, chi trasmetterà i brani più belli, eccetera eccetera eccetera eccetera. Allora, Emma Marrone sarà forse anche lei a Sanremo? Domanda. Ebbene, vi dico subito che sì, ci sarà, ma solo o se ad accompagnarla sarà uno dei suoi idoli della canzone italiana, vale a dire Gianni Morandi. A svelarlo è stato proprio Emma Marrone, forse perché negli ultimi giorni si parlava sempre di più della sua partecipazione alla 63esima edizione del Festival di Sanremo della canzone italiana. Insomma, Emma Marrone non conferma e non smentisce, però, e questo accende l'argomento tra i suoi fans in maniera sempre maggiore. In effetti, già l'anno scorso, quando Emma fu premiata da Gianni Morandi, la cantante salentina svelò di avere un sogno: scrivere una canzone a quattro mani proprio con Gianni Morandi. Chissà se un giorno si realizzerà questa cosa e se magari si penserà ad un duetto. Solo il pensiero fa andare in tilt, in delirio praticamente, i fans di Emma Marrone, che però se dovesse riapparire sul palco della Città dei Fiori non dovrebbe farlo per gareggiare,

Déjà vu su CRM Happy Radio. Thank you. saluto particolare va a Patrizia che ci ha segnalato questo singolo di Adele, Sky Falls, anzi senza la S, Sky Fall. Ok, e siamo proprio alla fine dell'appuntamento di oggi, giovedì 13 dicembre, con Deja Vu, con Mary Catalano ai microfoni, e siamo in procinto di dare la linea a Carta e Penna, l'appuntamento curato da Filippo Glorioso. Abbiamo il tempo però di sentire ancora una canzone tutta italiana di Marina Rey che si chiama L'errore. La conseguenza naturale dell'errore è dubitare che l'errore in fondo ci sia stato mai. E fatto il mondo Dio avrà perso un paio d'ore. Pavoneggiarsi e bere insieme a tutti quanti gli altri dei. La donna è donna, questo vi ho sentito dire. E giuro che il significato io non l'ho capito mai. Perché se partorisco allora so soffrire. È come dire che chi nasce ha un bel talento nel morire. E giorno dopo giorno lascio il mondo solo. Che Dio avrà bevuto troppo, forse poco, chi lo sa. Un singolare femminile, un tesoro. L'errore in sé che si rivela sotto forma di realtà. E non mi dire, devi capire. Io che ho voluto troppo bene non devo capire più. Che siamo al mondo per farci del male. E allora soffri fino a quando il cuore non ti esploderà. Un cielo nero, cielo nero, cielo nero. Tu eri denso e trasparente fino a qualche tempo fa. Credi davvero di essere il solo a volerne un milione e ne possibilità. Marina Rey questa mattina a chiudere l'appuntamento insieme a me, che sono sempre io, sono sempre Mary Catalano con voi ogni martedì e giovedì con l'appuntamento Deja Vu, che entra nelle vostre case, nei vostri posti di lavoro, nelle vostre macchinine, insomma dovunque voi siate, in capo al mondo anche vi raggiungiamo, lo sapete. E tutto questo naturalmente si rinnova la prossima settimana, visto che siamo già giovedì, e non posso fare altro che anche questa mattina che augurarvi un felice weekend. Organizzatevi come meglio potete, magari se c'è il sole fate una capatina sulla neve, perché c'è, lo sappiamo bene, le temperature sono state molto basse, quindi la neve c'è stata anche qua in Sicilia abbastanza abbondante, per cui potremmo anche approfittare, sperando appunto che ci sia il tempo buono, quello giusto per andare sulla neve. E ci risentiamo, vi lascio con le news e poi Carta e Penna insieme a Filippo Glorioso. Ciao.